Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, prima le comunicazioni di servizio che Giorgio De Luca, il nostro autore, mi ha scritto. A proposito, Andrea Roccabella oggi in regia, c'è sempre Edo Lavezzari in redazione. Allora, vediamo se leggo bene, eh? Vi ricordo che anche oggi potete seguirci ora in video sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Facebook di Radio 24. E inoltre vi ricordo che domani e dopodomani vi aspetto per le convocazioni live a Tutto Food, fiera internazionale del Food and Beverage a Milano, Roffiera, fino all'11 maggio. Saremo lì per due giorni. Pardo, che te salti anche questa? Salto due, sì, vado a Madrid a mangiare. Ah già, a Madrid. Ritorno, ma cosa ti perdi? Cosa ti perdi lo so, a sto lo so, giro? Tutto Food, insomma, diciamo che è in cima ai miei sogni, però. Sì, lì posso capire. Allora, mentre ci sono gli allenatori che rimbalzano come palline da flipper in questi giorni, si è diffusa ieri la voce incontrollata e incontrollabile di Mancini sulla panchina del Milan. Di questo parleremo dopo, perché De Luca mi ha fatto delle torte, hai presente le torte con le fettine che gli dicono percentuali, eccetera, eccetera, che neanche Simona Pardo. No, quelle di mia moglie, sì, quelle proprio quelle vere. Quelle vere. Che io aspetto il bis, comunque, e di questo parleremo più tardi. Tra l'altro oggi invece si dice un'altra cosa. Ho letto che invece Mancini andrebbe al Paris Saint-Germain ad allenare con il ritorno di Leonardo come direttore sportivo. Non so più che cosa pensare. Sempre notizia di oggi, poi parleremo anche di Giro d'Italia perché oggi ci si arrampica sull'Etna. Ebbene, notizia di oggi, per fortuna, senza conseguenze, notizia pazzesca. Froome, mentre si allenava travolto in bicicletta, non si è fatto nulla, ma ovviamente grande paura per lui. Come vedi la Juve questa sera? Poi ricomponiamo la coppia con Di Gennaro, che ha commentato la partita dell'andata. Questo accadrà tra poco. Allora, la vedo bene. Io penso che chiaramente Allegri faccia bene a non sottovalutare la partita e a usare il massimo rispetto, perché comunque è troppo importante perché si possa commettere l'ingenuità di sottovalutare o di sbagliare la partita. Però io penso che la Juve sia in controllo, penso che il Monaco abbia un orizzonte in patria assolutamente aperto dopo quella famosa sconfitta del Paris Saint-Germain a Nizza, quindi sia veramente a un passo dal titolo. E credo che anche mentalmente, anche per come si è comportato in Coppa di Francia con le riserve, che non penso giocando le riserve stasera, per carità, però insomma mi aspetto una squadra già un po' mentalizzata, come dicono gli spagnoli, sull'obiettivo campionato, che è comunque un obiettivo storico. Detto questo, ci vorrà attenzione, soprattutto secondo me, diciamo, la prima mezz'ora, non farli rientrare in partita, ecco, questo è. Ma insomma la Juve è abbastanza adulta e vaccinata, quindi certo. C'è che mi ricorda che non siamo in diretta su Facebook, quindi potete vederci. Chi mi ricorda che non sono Belen? No, non sono Belen proprio per nulla. Più tardi parleremo anche di tennis, perché ieri si sono sfidate le due meravigliose del tennis mondiale, Sharapova e Bruchard. Tutti si aspettavano un confronto solo tra due bellezze, invece è stata una battaglia addirittura selvaggia. Senti, sono curioso di chiederti una cosa. Allora, come gestirà la Juventus le tre partite che l'aspettano? Quella di stasera, quella di domenica con la Roma, in cui potrebbe inchiostrare lo scudetto, e una Coppa Italia che arriva a stretto giro di posta, perché è una domanda che ieri ha fatto molto discutere qui in redazione, Cruciani compreso. Io continuo a pensare, e te la dico grossa, che il grande pericolo per la Juventus possa arrivare dalla finale di Coppa Italia. Sì, anche perché la Lazio sulla via di ciò che non diciamo per scaramanzia. Guarda, allora io penso questo, che la Lazio sia benissimo, ha detto tutte le cose che abbiamo detto mille volte, che è una squadra secondo me già di suo molto forte, ma è nel momento secondo me migliore della stagione, dal punto di vista dell'autostima, dal punto di vista della qualità, della vigoria fisica, quindi veramente è un grande momento. La finale è in campo neutro, io sono stato a vedermela da spettatore un paio di anni fa, la finale della Juve, la finale è in campo neutro, però è ovvio che giocando a Roma comunque piccolissimo vantaggio di fattore campo c'era la squadra di Roma, e quindi io sono d'accordo con te, insomma, secondo me è un passaggio molto complesso. Fra l'altro, come va la Juventus ad esempio a Roma con la Roma? E quello è pure questa è una buona domanda. Diciamo, l'ipotesi più razionale, secondo me, paradossalmente è fare quasi turnover in campionato, poi ovviamente la Juve ci terrà a vincere. Sì, come ha fatto domenica con il Torino. Beh, insomma, sì, guarda, allora, che lui faccia, lui l'hai visto come ragiona, lui comunque il turnover lo fa in maniera abbastanza scientifica, lo fa soprattutto dietro, dove ha oggettivamente tante soluzioni, perché lui praticamente ha 5 difensori centrali di buon livello, adesso Rugani si è fatto male, ma comunque può continuare a ruotare in grandissima serenità, Chiellini, Barzagli, Bonucci e Benatia. Io un po' di turnover me l'aspetto, e la partita della quale me l'aspetto di più alla fine paradossalmente è quella con la Roma, può sembrare appunto un paradosso, però è così, nel senso che poi alla fine quella con la Lazio è una finale, sì, la partita che vale la finale, l'ipotesi più con la Roma dentro fra noi, se anche la Juve dovesse perdere, poi insomma, 99% la settimana dopo diventa campione d'Italia, e se non diventa campione d'Italia col Crotone ci diventa col Bologna. Senti, salutiamo insieme lo Zar Massimo Carrera. Buongiorno. Massimo Carrera, che ha appena vinto un titolo con lo Spartak Mosca, che non vinceva il campionato russo dalla preistoria, ormai è preistoria, 2001, non mi ricordo neanche se c'erano le lire o l'euro, di sicuro c'era il rublo. Le lire. C'erano le lire. Sì. Bisogna chiamare Giannino o Barisone, fatto dire. Però a parte tutto, ti senti, adesso poi parliamo di te, insomma, ti senti comunque l'ennesima grande espressione di una scuola, ecco, cioè noi dobbiamo essere orgogliosi, perché anche in anni nei quali non è proprio che abbiamo brillato dal punto di vista dei risultati a livello di club, quest'anno ovviamente le cose con la Juve così stanno andando in maniera diversa, noi continuiamo a esportare veramente i migliori allenatori al mondo. Senti parte di una scuola? Sì, no, sicuramente facciamo parte di una scuola di allenatori che secondo me ha qualcosa in più rispetto agli altri sotto il profilo della tattica, sotto il profilo dell'organizzazione, quindi siamo più attenti verso i dettagli che possono fare la differenza. Sai che è più una delle persone più felici d'Italia che tu abbia vinto il titolo? Ce lo dice tutte le volte, eh? Il tuo amico Emiliano Mondonico. Tutte le volte. È un grandissimo amico nostro di Radio 24, personale, eccetera, eccetera. E lui non sta più nella pelle, gli frega niente di Conte, di chi andrà al Milan, all'Inter, alla Juventus. L'unica cosa che dice è Massimo Carrera, guardate Massimo Carrera che sta diventando campione di Russia. Tra l'altro ti sei trovato, la tua storia è pazzesca, perché ti sei trovato ad allenare lo Spartak Mosca come capo allenatore praticamente in via casuale, no? Perché è andato via Alenichev, che credo sia stato tuo compagno alla Juventus, no? No, quello no. Faccio confusione io con gli anni. Giocava nella Roma all'epoca. La Juve era Alenichev. Faccio una confusione pazzesca, anche col nome di Pardo ogni tanto lo chiamo per Antonio, figurati. Ma io sono arrivato a fare l'assistente nella fase difensiva di Alenic, che il presidente voleva un italiano, e io ero gli europei e avevo appena saputo di non poter essere, cioè non poter far parte dello staff di Antonio, non era ancora sapevo ancora se poteva portarci tutti, chi poteva andare, e quindi ho ricevuto questa proposta dallo Spartak di andare a fare l'assistente, e ho accettato di prendere e partire e andare a lavorare per lo Spartak. Poi dopo è successo quello che è successo, siamo stati eliminati nei primi anni dell'Europa League. L'allenatore capo è stato Aleni, ci aveva mandato via e hanno detto prendi in mano per un attimo la squadra tu in sì, attesa. Per due giorni, per due giornate, perché poi c'era la sosta, poi fare l'allenatore, che intanto che cerchiamo. Sì, sì, vabbè, aspetto, lo faccio. Poi dopo non sono riusciti a mettersi d'accordo, perché loro volevano Berdi per quello del rosso. Sì, voleva troppi cambiamenti, troppe cose, guarda. Se te la senti rimane allenatore, fai allenatore e basta, io l'accetto, sentivo pronto, era una bella sfida, poi non ho paura delle sfide, l'ho accettato e grazie a Dio questo è il risultato. Altro che, altro che sfide e risultati, sì. Massimo, Massimo, c'è adesso? Aspetta Pier, allora Massimo regalaci altri 5 minuti, noi abbiamo un clock preciso, spero tu sia un nostro ascoltatore abituale, abbiamo il traffico ma dura poco tempo. Chiamatemi al fisso, 30 così secondi. Senza ancora mezzo. Allora facciamo così, altra comunicazione tecnica, chiamiamo Pardo al fisso, Massimo Carrera ce lo teniamo, 800 24 00 24 per chi vuole intervenire, magari se ha fortuna può fare anche una domanda a Carrera. Traffico. Convocati. Tutti convocati. Massimo Carrera, zar di tutte le Russie, è collegato con noi. Lo immagino seduto in un attico a Mosca mentre guarda le cupole d'oro. Sto passeggiando adesso. Stai facendo una passeggiata? Dove? Sì, no, sono qua in Diyarbakır, zona centrale di Mosca. Ah, ti fermano selfie, autografi? Sì, sì, sì, qualcuno sì, non molti, però è grandissimo. Poi no. ci sono 4-5 squadre a Mosca, quindi... E infatti le hai messe in riga tutte, compreso il Zesca, che è da sempre la grande armata. No, sì, ma proprio per questo, insomma, c'erano diverse squadre, onestamente, dal punto di vista dell'organico, che erano molto più forti del tuo Spartak. E allora, Pardo, io la dico grossa, è un'impresa non distante da quella di... L'anno scorso fu Ranieri, quest'anno fu Carrera. Sì, beh, insomma, senza che... ovviamente facendo qualche proporzione, facendo qualche valutazione, qualche distinzione, qualche differenza. Però certo lo Spartak, mettiamo che... Quanto eravate quotati all'inizio della stagione? No, poco perché era tanti anni che non vincevano, quindi l'anno scorso erano arrivati quinti, erano fatti la prima Europa League, poi eliminati subito, quindi non siamo partiti solamente tra i favoriti. Eravate la quarta quinta forza del campionato, credo, no? Come sì. Non sì, di più, sì, eh. Sì. No, quindi è una grandissima impresa. Ti chiedo che cosa c'è nel tuo futuro, non parlo del breve periodo, perché credo che tu voglia viverti giustamente una grande esperienza anche a livello europeo con questo club, ma c'è un tipo di calcio dove ti piacerebbe magari fra qualche anno finire? L'Italia comunque il punto d'arrivo? No, per il momento mi godo questa vittoria, poi penso di rimanere qua a Mosca, per la possibilità di fare anche la prossima Champions League, di altro anno di esperienza, penso, perché se poi dopo si vedrà, vedremo cosa succede. La sfida con Conte l'anno prossimo? Sfida con Conte? Sfida con Conte, lo aspetto in finale. Lo aspetto in finale, giusto. Devo decidere se Antonio o la Juventus si prende dei due in finale. No, anche perché poi bisogna vedere se Antonio, che tra l'altro vincerà, bravo, arriviamo alla domanda chiave, ha vinto tra l'altro ieri sera 3-0 col Boro. Col Middlesbrough più 7 sul Tottenham, che ha perso, quindi praticamente a un millimetro dal titolo d'Inghilterra. E poi tutti aspettiamo di capire se farà la Champions League col Chelsea o sceglierà un'altra via. Secondo te, Massimo? Ma non lo so cosa può passare dalla terza piattaforma, poi sicuramente fare la Champions League con il Chelsea, magari con la possibilità che Abramovic i rinforzi della squadra, penso che sia molto molto molto allettante per lui, è importante. Poi dopo sicuramente Abramovic farà di tutto per tenerlo, perché se lo fa scappare è un gravissimo errore. Sì, però il 100% io non lo metterei, Pardo, neanche tu, forse neppure. No, lo mettiamo, Massimo resta sicuramente più di noi, ma non vogliamo neanche fargli fare il reporter, sfruttarlo, giusto c'è il tempo. È un purtroppo. Quanto vuoi, perché io lo sento, l'ho sentito anche l'altra sera, ma non gli chiedo queste cose perché non voglio sapere quello che fa lui, capito? Quindi non ho mette difficoltà. Sì, sì. Quindi non so, io anche io quello che succede lo leggo tramite internet, tramite i giornali. Certo. Senti, vai tu, Pardo. Sì, no, volevo capire una cosa sulla Juve, insomma, un vecchio amore, perché questo è un anno per le due squadre non male, poi c'è anche l'Atalanta, però insomma ci sono delle insidie nella partita di stasera e in un eventuale finale, facendo tutte le scaramanzie del mondo con Real, è giocabile. Mi sembra che sia cambiata la testa soprattutto rispetto a due anni fa, la squadra più consapevole di se stessa, non so se sei d'accordo. Sì, no, sicuramente stasera devono prendere la partita non facile, perché ripeto, le partite non sono mai vinte prima di giocarle, quindi se va a scendere in campo come ha fatto l'andata può arrivare veramente in finale. Quello in finale secondo me al 50%, perché rispetto agli altri anni è più forte, ha più convinzione, ha più esperienza, e oltre ad essere organizzata ha inserito anche giocatori di qualità. Sì. Quindi se la può giocare alla pari, secondo me anche il Real Madrid deve avere paura della Juve. Sì, no, ma di sicuro, anche se Bale strilla che tanto vinceranno loro nella sua Cardiff, ma Bale, come sappiamo, è il grande problema tattico del tuo amico Zizou Zidane, no? Metterlo o non metterlo? No, per quanto mi riguarda ti leggo due domande e poi chiudo e non so se parla qualcos'altro. Visto da lassù la situazione Roma Spalletti, addio di Totti, che effetto ti fa? E poi la tua Atalanta vista così dall'alto, così in alto, mai davanti alle milanesi nella storia, che effetto ti fa? No, un grande effetto, perché penso che la società sia stata brava a come sempre a puntare sui giovani, e ha trovato un allenatore che ha lavorato per quei giovani e sta valorizzando i giovani, ha fatto un buon calcio, giustamente in quelle posizioni merita di star lì, ha fatto un buon calcio. Per quanto riguarda Totti, penso che sia un peccato per tutto il calcio non vederlo più sui campi, è un peccato uscire di scena così, magari senza aver giocato costantemente nell'ultimo anno. Sì. Solo quello, però senti, rimarrà sicuramente un campione. Massimo, ti faccio salutare da quello che credo sia un tuo amico, cioè Antonio Di Gennaro. Massimo Carrera in linea, ciao Antonio. Ciao, Massimo, grande ciao. Massimo, come stai? Grazie, complimenti vivissimi. Bene, insomma, grazie, bene. Qualcosa ti ho insegnato 30 anni fa. No, sono molto contento, veramente, anche di questo. Leggevo oggi, domani devo rintracciare Massimo, perché credo che se lo merita, perché poi insomma andare là in un posto diverso, in una situazione diversa, e entrare subito nel quest'ottica di primo allenatore. Non è stato quindi, ma lui ha sempre avuto un grande carattere, oltre ad essere un difensore forte. Mi ricordo ancora la prima cosa che mi chiese, lui giocava a zona l'anno prima, che poi arrivò a salvarmi a Bari, sì. E dice io qua ero abituato a giocare a zona, uomo, sono un po' in difficoltà, non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto. Me lo ricordo ancora come se fosse oggi, e quindi sì. Fa veramente un grande piacere per lui, per te Massimo, e anche per la tua carriera. Certo, da Conte si impara. Tanto, tantissimo. Complimenti. Max, complimenti di nuovo, ci sentiamo presto. Grazie, se sei d'accordo. Ciao Massimo Carrera. Ciao a tutti, ciao. Allora, abbiamo ricomposto. Che bella sorpresa. Hai visto? Hai visto, Dice? Hai visto? Senti, allora abbiamo ricomposto. Tu sei una barba. No, abbiamo delle nostre gag, poi c'è della roba, ragazzi, non ti devi dedicare. Ragazzi, abbiamo ricomposto la copia che ha commentato la partita di andata. Allora, saranno convenevoli questa sera oppure no? Diciamoci la verità. No, ma dice non ha commentato l'andata, noi dobbiamo commentare insieme un sacco di partite quest'anno, tra cui Barcellona, Paris Saint Germain. Ma insomma, vabbè, però lo vedo. Era serena l'andata. Era serena l'andata. Ma sì, ma siamo tutti una grande famiglia. Ho iniziato con Pierre, la mia prima telecronaca fu Milan-Lens. Eravamo, si può dire, sì, a stream. Sì, beh, certo. E quindi fu doppietta di Inzaghi, la mia prima telecronaca. E devo dire che ero molto emozionato, ma insomma, con Pierre poi siamo entrati in sintonia subito. Beh, Morale, saranno convenevoli, ma lasciando stare le scaramanzie, saranno convenevoli questa sera o bisogna stare attenti a qualche cosa? E se sì, a che cosa, Antonio? Ma convenevoli no, non c'è mai una, a livello così di Champions League, soprattutto una squadra che non c'è niente da perdere, è normale che insomma hanno poche possibilità, darei un 20%, se no 30%, ma tanto, perché la Juventus ha dimostrato quest'anno e anche negli ultimi anni questa capacità di voler arrivare fino in fondo con la massima forza che soprattutto quest'anno, ripeto, ha espresso in tutte le competizioni, soprattutto in Champions League. Una squadra che ha subito soltanto due gol in tutta la Champions League vuol dire che è una squadra che giustamente deve arrivare in finale, quindi l'ha dimostrato sul campo con un atteggiamento che poi ha cambiato Allegri, e credo che lì è stata la mossa sicuramente tattica dopo Firenze di questo modulo molto offensivo, ma anche da parte dei giocatori questa loro, diciamo, prodigarsi anche ed essere bravi nel soffrire, nel sapersi adattare, nel sapersi sacrificare a un modulo che doveva essere questo per la Champions, soprattutto per l'Europa, e questo ha dato grande risultato. E stasera ci dovrebbe essere veramente una situazione completamente diversa da quella che è, perché la Juventus non può non passare il turno, sarebbe veramente un suicidio a tutti i livelli, peggio la Juve proprio nella sua storia ha questo, insomma, anche quando andammo con Piero a fare la famosa remontata che c'è stata contro il Paris Saint Germain. Sai perché mi sono confuso? Perché insieme avete commentato la partita di Barcellona che è stata indimenticabile. La Juve nella storia sua non ha mai preso l'imbarcata, come si suol dire in gergo, è sempre stata una squadra veramente in questo senso, e negli ultimi anni proprio l'aspetto difensivo di questa loro fame, voglia di centrare gli obiettivi, e la dimostrazione l'anno scorso dopo Sassuolo, il gruppo storico si è riunito e non dobbiamo vincere, hanno vinto quest'anno lo stesso, con gli acquisti importanti che sono cresciuti grazie anche al lavoro di Allegri nella gestione sia tattica che all'interno dello spogliatoio. No, sicuro. Il caso Bonucci è stato anche lì andiamo a commentare proprio con Piero Oporto, è stato un classico proprio di quest'anno della gestione perfetta di Allegri. Non so se ti è capitato di sentire cosa ci ha detto la settimana scorsa Rego Sacchi, che ha incontrato Bonucci qualche giorno dopo quell'episodio in un'altra occasione, e Bonucci gli ha detto: quella storia mi ha fatto capire diverse cose, e far capire diverse cose nuove a uno come Bonucci, che è un senatore, che è un capobranco, che è una leader di questa squadra, vuol dire tantissimo, è quello che diceva che Sacchi, crea la mentalità che crea, è quello che diceva Sacchi, per la crescita dei giocatori sia a livello ovviamente tecnico, tattico, ma soprattutto comportamentale. E la Juve è la storia parla così, insomma, assolutamente. La Juve migliorano tutti alla Juve, soprattutto anche a livello mentale. Poi lì veramente è stato fu un trionfo per Allegri, che per il caso Bonucci, le sostituzioni che fece, Dani Alves e Piazza, che fecero i gol del 2-0. Quindi fu un trionfo per Allegri e per la società, Antonio. Ma è quella che comanda, che gestisce. So che devo lasciarti, tra l'altro, alla borsa, però mi preme farti una domanda secca, poi con Pardo avrai modo di parlare. Noi ne parlavamo già prima, ma come ti aspetti che Allegri gestisca questa partita, quella di stasera, la Roma e la finale di Coppa Italia che arrivano a stretto giro di posta? Ma stasera giocheranno i migliori, che giusto. Questo è in dubbio. Poi a Roma? Con la Roma si gioca lo scudetto, quindi per lui è importante, giocheranno secondo me quasi tutti. Poi sulla Coppa Italia, ma io credo che questa squadra sia arrivata proprio al top a livello fisico e anche mentale, quindi psicofisico a livello veramente al massimo della situazione, quindi la gestirà come ha sempre fatto, perché anche con il Torino, a parte quello che ci è successo, secondo me l'aveva gestita bene i cambi, perché poi credo che in questo mi sembra che quest'anno veramente, ma anche gli altri anni Allegri ha veramente sbagliato pochissimo. Attualmente uno tra i migliori allenatori al mondo con quelli che ci sono, ma io credo che bisogna metterlo nella sfera dei allenatori tra i migliori al mondo. Io ce lo metto, aspettiamo insomma un'ipotetica incoronazione europea, poi facciamo la graduatoria. Antonio, ti ringrazio, buon lavoro. Ciao. Pier, abbiamo la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Arriviamoci. Adesso non significa niente, un'altra semifinale da giocare, sicuramente siamo contenti di essere arrivati, però credo che sia prematuro parlare di Cardiff. Abbiamo 95 minuti da affrontare domani, che nascondono tante insidie, ma che abbiamo anche tanta esperienza per sapere cosa ci aspetta. Passiamo il turno domani e poi cominceremo anche ad avere un pensierino anche per Cardiff. Domani giochiamo col Monaco e bisogna anche ancora conquistarsi la finale, perché nel calcio non si sa mai quello che può succedere all'interno di una partita. Noi bisogna giocare una partita per portare a casa un risultato positivo che ci permetterebbe di andare in finale. Quindi bisogna alzare molto la concentrazione, perché il Monaco non ha niente da perdere e quindi giocherà una partita più aperta, più spensierata, con giocatori che possono crearti grandi difficoltà, perché è un giocatore di grande talento. Abbiamo fatto anche un bel trailer della partita di questa sera, che speriamo mandi la Juventus a Cardiff, e domani voglio levare questo, speriamo. Stavo notando che qui le barbe vanno di gran moda. Prima vedevo un video con quella leonina di De Rossi, ma Roccabella la barba, De Luca la barba, la Vezzara la barba. La mia e quella di Belinazzo la potete vedere con la webcam sul sito Facebook di Radio 24 e sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook naturalmente. Ciao Marco Belinazzo. Eccoci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ho diverse domande per te. Sì, non sapevo di questa novità della pagina Facebook, ma siamo anche... Sei ripreso, quindi... Quindi mi devo comportare bene, il galateo dei giornalisti radiofonici. Bene. Adesso voglio fare... Ovviamente c'è anche Pierluigi Pardo, che è l'unico sbarbato. Ciao Belli. Cosa aspetti a farti crescere la barba? No, ma ci ho provato, ma faccio schifo, quindi... No, veramente, sono tutti itzer ormai, ma viene una roba... Poi non mi cresce, mi viene mezzo da una parte, mezzo dall'altra. Già, insomma, c'ho i miei problemi, no, dal punto di vista dei lineamenti, non è che proprio sia esattamente di Caprio. Non fare così, che sei sex symbol a livello mondiale. Abbiamo un altro amico barbuto con cui facciamo un bel gioco adesso. Tra le voci e le prospettive economiche, cosa è possibile e cosa è impossibile. Luca Marchetti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai, Marchettone? Bene. Allora, sai che De Luca mi ha fatto le torte degli allenatori, poi Berinazzo mi dice cosa è possibile, se è meglio una tournée in Oriente o la partecipazione dalla porta di servizio all'Europa League, cominciando quando tutti sono ancora prima che partano per l'ombrellone. Partiamo dalla voce che insomma è rimbalzata ieri come una pallina da flipper. Via Montella arriva Mancini. Berlusconi ha criticato Montella, sta facendo alla Moratti, un po' alla Moratti da fuori. Ha criticato Montella per il gioco, poi Montella ha risposto. Ma il suo pensiero lo conosco perfettamente, lo conoscevo anche dopo la prima parte del campionato, che eravamo secondi per poco tempo e giocavamo molto bene, abbiamo dato grande soddisfazione anche a lui stesso. Il suo pensiero lo conosco anche dopo la vittoria di Doha, una vittoria incredibile contro la Juventus, quindi so perfettamente come la pensa. Allora, Berlusconi ha detto il Milan gioca male. Gioca male, quindi questa è stata la sentenza da fuori. La torta di De Luca mi dà Montella 50%, Mancini 40%, altri 10%. Luca Marchetti. Io aumento moltissimo gli altri, diminuisco moltissimo Mancini, Montella dipende dai risultati e non potrebbe anche risultati, non bastare. Per risultati sì. Sono già scritti, mi pare, no? Che va in Europa League? Insomma, linea di massima l'Inter, perché tu presumi che continuino a perdere tutti, vista la concorrenza mi sembra che i risultati a motore spento, no? Sì, diciamo in surplus. Se dovesse andare in Europa così rischierebbe anche Montella, nel senso che se ci va perché gli altri fanno peggio di lui è un conto, se ci va perché fa meglio degli altri è un altro. Allora, certo. la vulgata Pardo dice che è meglio una tournée in Oriente, peraltro già siglata dal Milan, piuttosto che i preliminari di Europa League. Secondo te è vero o falso? Poi ti risponde Beninazzo. No, secondo me è veramente un malcostume, però non mi sorprende più di tanto. Detto questo, io non credo che né Milan né Inter stiano perdendo apposta, questo tanto per essere chiari. Mm-hmm. La sensazione è che, con tutto il rispetto per l'Europa League, soprattutto poi passando dal preliminare e passando dal sesto posto in classifica, insomma, diciamo è un po' il crollo del desiderio. Questo è un problema nel calcio italiano. Noi l'Europa League la consideriamo una cosa brutta. Invece no, ma al di là della cosa brutta è il fatto che comunque sarebbe attraverso la porta di servizio del preliminare. Sì, Marco, sì, certo. Beh, innanzitutto sgombriamo il campo da una questione proprio regolamentare, perché una delle questioni, vabbè, tu arrivi sesto, potresti anche al limite rinunciare se proprio non vuoi fare l'Europa League. C'è questa possibilità, sì. Questa possibilità c'è, ma il regolamento UEFA non preveda che a quel punto possa subentrare un'altra squadra. Quindi le squadre di una certa nazione a quel punto andrebbero a disputare le coppe europee con una in meno, e questo creerebbe però danni col ranking, certo, che certo. Diventa ancora più fondamentale con la riforma che entrerà in vigore. Quindi questo è un aspetto che è interessante secondo me da chiarire. Detto questo, sai, sulla questione economica diciamo che i club blasonati come il Milan o l'Inter possono ottenere da queste tournée, in particolare quelle che rientrano nella International Champions Cup, che si gioca da alcune estati, anche cifre interessanti tra i 3 e i 4 milioni. Questo, se lo aggiungiamo a eventuali penali da pagare in caso di ritiro, fa aumentare il bottino dell'Europa League, della tournée. Allora, fin quando conviene fare l'Europa League? Ebbene, se tu guardi ai gironi, quindi a queste 6 partite, in realtà diciamo sarebbe molto più conveniente fare le tournée estive che il semplice girone, perché posto che tu vinca tutte le partite del girone, diciamo puoi arrivare al massimo a 5,2 milioni. Poi c'è un po' di market pool, ma andrebbe calcolato. Detto questo, è evidente che se tu consideri la fatica per giocare il giovedì, tutti i danni diciamo di preparazione legata all'anticipo, è evidente che se hai un orizzonte che è quello dei gironi, insomma qualche calcolo te lo fai. Evidentemente se la tua prospettiva invece è giocare di più e cercare di arrivare fino in fondo, il discorso cambia, perché lì diciamo che vincendo l'Europa League si può arrivare anche a 20-25 milioni. Esatto. E quindi da questo punto di vista è chiaro che se parti battuto, se parti per non giocarla, a questo punto è meglio non qualificarti proprio, anche dal punto di vista economico. Quindi possiamo diciamo rispondere che sì, se la prospettiva è quella diciamo di impegnarti relativamente, se hai un impegno serio non c'è dubbio che conviene fare l'Europa League. Siamo un paese di nobili decaduti, siamo un paese dal punto di vista calcistico, adesso secondo me stiamo tornando su livelli importanti, ovviamente la Juve ha grandi possibilità di darsi una mano anche dal punto di vista del ranking, però è abbastanza questa roba qua, miseria e nobiltà, ci siamo abituati a mangiare caviale, champagne e il prosciutto di Parma, che pure è buonissimo, non ci piace più. Questa è un po' la mia sensazione. Abbiamo veramente sottovalutato una cosa. Certo, cioè, alla fine le società come Milan e Inter, l'importante è che vincano qualcosa. Perché appunto, è molto tempo che non vincono. Appunto. Ma è chiaro, che Luca, ma qui a Milano, che sia l'Europa League, che sia il campionato, ma tu pensa alla Roma quest'anno, allora, quest'anno, ragazzi, che tipo di scenario, ragazzi, poteva avere? Lo so, cioè, che l'Ajax sono... al 99% va in finale, l'Ajax, ma è ovvio, è ovvio che ti giochi la finale, la scritta finale con lo United di Mourinho e magari la vinci pure. So che sono un cerbero, ma devo fermarvi per il traffico e poi arriviamo alla torta più velenosa di tutte, cioè quella relativa all'Inter. Siete tutti convocati. Arrivo, Enzo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, con Luca Marchetti faccio due torte velenosissime al volo e poi lo saluto e lo ringrazio e finisco il discorso con Pardo e Beninazzo. Luca, l'Inter... 10% Pioli, 30% Spalletti, 30% Conte, 30% Simeone. Pioli è molto alta, in questo momento è molto alta, 10%. Obiettivamente ha buttato via un grandissimo lavoro che ha fatto, perché quando è arrivato l'Inter obiettivamente ha cambiato marcia, è tornata l'Inter di prima. Paradossalmente mi verrebbe da dirti che il problema dell'allenatore non è il primo problema dell'Inter. Quindi tutti i nomi che si fanno adesso sono... Vabbè, allora cancello Pioli, Spalletti, Conte, Simeone. Io vedo molto più facile Spalletti degli altri due. Tu vedi molto più facile Spalletti degli altri due. Allora, sì, arrivo... Non escludo sorprese però, non escludo sorprese. La non voce altro, secondo me, in questo momento è la più alta. Ma neanche Massimo Carrera, che sente Conte spesso, insomma, leggo maliziosamente tra le righe, ha escluso nulla a proposito di Antonio Conte. Arrivo all'ultima torta velenosa, Roma, 30% Montella, 20% Spalletti, 40% l'amico di Monchi, Emery, 10% altri. Secondo me in corsa ci sono, con una percentuale minima, perché è molto difficile che possa andare via dalla società dove è adesso Sarri, che credo che sia quello che piace di più alla dirigenza giallorossa. Di Francesco io una percentuale gliela darei, e la darei anche a Sosa. A Sosa, Emery e Montella. Perché Sarri dovrebbe lasciare il Napoli per la Roma? No, ma Sarri penso che... infatti ha detto che è quello che piace di più, ma sarà molto difficile che lasci il Napoli. Montella e Emery li lasciamo? Montella e Emery li lasciamo, con percentuale più basse rispetto a quella del buon De Luca. Spalletti? Spalletti io credo che non voglia rimanere lui, sinceramente. Non so che ne pensiate voi, però no, da quello che ne pensiamo nelle interviste... Ne pensiamo, ne pensiamo più o meno la stessa cosa. Luca, ti ringrazio. Grazie a mille. Voi. Grazie mille, Luca Marchetti da Sky. Come vedi queste torte di Marchetti, Pardo? Ma mi sembra che sia il classico effetto domino, non è, mi sembra che siamo ancora in una fase nella quale ci sono delle idee, ma di certo non c'è nulla. Chiaramente l'Inter vuole cambiare, vuole a budget per andare a cercare un big, ma il big bisogna capire se ci va, questa è la domanda. Giriamo la Berinazzo, si parla di un'offerta a top coach a 15 milioni a stagione, grosso modo, perché vengono quella cifra lì. Enorme. Dove può arrivare la potenza economica dell'Inter se si pensa, Icardi, top player dell'Inter, guadagna 5,5 milioni a stagione. Qual è la situazione dell'Inter? Il problema non è quello che può comprare Suning, perché Suning può tranquillamente permettersi di spendere queste cifre. 15 milioni per un allenatore. Suning può spendere, il problema è capire se si integra con un bilancio dell'Inter che comunque dovrà chiudere in pareggio, che è ancora sotto monitoraggio UEFA e che necessita di un incremento di ricavi. Quindi sarà fondamentale capire, e lo capiremo per esempio col prossimo bilancio chiuso, quanto i contratti che sta facendo Suning in Cina permetteranno di aumentare, da quello che mi risulta, diciamo, i ricavi stanno aumentando in maniera sensibile per quanto riguarda l'Inter, e quindi diciamo questo potrà permettere evidentemente di avere maggiore spazio sul mercato, anche alla luce del fatto che molti giocatori mi sembra che siano in lista di partenza. Immagino un po' Pierluigi vincendo, cioè, se stanno aumentando, facendo queste figure, immagino un po' vincendo. Ma infatti è esattamente questo, insomma, ripeto, è un meccanismo molto molto complicato. Credo che Conte abbia davanti a sé da un lato uno scenario molto intrigante, che è quello di andare a difendere il titolo di campione d'Inghilterra e andare in Europa a provare a vincere la Champions League col Chelsea, e non credo che ci sia un punto di carattere economico, nel senso che già un buon contratto no, assolutamente, anche perché glielo aumentano, ecco appunto, quindi non vedo grandi problemi. È più secondo me un punto di scelta di vita, magari la voglia di tornare in Italia, a me sembra molto anche legato all'Italia, all'italianità, mi sembra molto, insomma, molto nostrano Conte, eh. Quindi una certa, però in realtà dimostrano di essere adattissimo anche per il calcio. No, no, ma dici come non, idea. Non si tratta, no, di, a me risulta proprio che ci sia un punto familiare, esatto. Ma niente di chissà che, cioè comunque un desiderio di vivere in Italia con tutta la famiglia unita, ci sta questo tipo di ragionamento. E poi ci può essere anche una componente di continuare a stupire, perché le vite dei grandi allenatori, dei grandi giocatori, sono vite basate sull'ambizione e sulla voglia di darsi sempre dei nuovi traguardi, e quindi certamente rianimare l'Inter potrebbe essere una bella idea, una bella sfida. Grazie Pier, ti vedo stasera alle 7. Alle 7, ciao. Marco, la prossima volta ti chiedo come sta la situazione del Milan, perché non beh, diciamo velocissimamente che peraltro il Milan, se non si qualificasse per l'Europa League, potrebbe avere più margini sul calciomercato e l'ipotesi inversa. Poi magari al prossimo giro la spieghiamo. Benissimo, state in sospeso, alla prossima con Marco Berinazzo, che ringrazio. Ci fermiamo per il GR e poi andiamo a un aggiornamento sul Giro d'Italia, alle bombe di Ciccio Graziani e alla sfida tra le due bellissime del tennis. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo, tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Rientriamo con un flash da uno dei posti più affascinanti del mondo, cioè l'Etna, vulcano siculo, dove oggi arriva la prima tappa in salita del Giro d'Italia. Ciao Piero Augusto Staggi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Abbiamo aperto dicendo anche dell'incidente a Froome mentre si allenava a Monte Carlo. Grande paura, ma nessuna conseguenza. Un momentaccio, una bicicletta. È davvero un momento difficile quest'anno per un Romandia non bellissimo, e poi adesso vince un impatto piuttosto violento, ma è andato bene, è andata bene. Senti, Cefalù, Etna, 181 km, arrivo in salita. Cosa succede oggi? Qualcosa succede, usando proprio le parole di Vincenzo Nibali, qualcosa succede di sicuro. E Vincenzo è apparso questa mattina molto concentrato, sereno, ma sicuramente meno sorridente dei giorni scorsi, perché sa che oggi appunto qualcosa succede e teme fortemente la reazione di Nairo Quintana. Anche se ho parlato con Valerio Piva, direttore sportivo della BMC, lui dice: io consiglio a Quintana di prendere già la maglia rosa così presto. E Anibali? Come sarebbe? A Vincenzo invece farebbe bene. A Vincenzo farebbe bene perché nella sua terra vestirsi di rosa, certo, poi avrà il peso della corsa, però Vincenzo c'è anche abituato, poi è un istintivo. Quintana è un corridore. Parlano di questa rivalità. Ma facciamo un po' di spettegulesse. Com'è sta storia? È tirata per i capelli, ma non perché io voglio smorzare giornalisticamente. No, una cosa che non smorziamo proprio ma niente. Non perché Vincenzo sicuramente ha un carattere diverso e non ha un'affinità con Quintana, ma Quintana è l'uomo che non ha espressione, non ride mai, non ride neanche sui compagni, lo vedi di rado parlare, è quasi una mummia, quindi tu non puoi dire guarda al muso, perché il muso ce l'ha sempre, può vincere il Giro d'Italia, fa fatica a sorridere, fa fatica a parlare con compagni a distanza, chi lo conosce sa che è così, ma non perché è presuntuoso, perché è molto timido, molto introverso, è così. Vincenzo non è un giocatore lungo, ma è sicuramente molto più sanguigno, passionale, uno che si dà, che si pone, però con Quintana sì, probabilmente non c'è amicizia assoluta, dire che c'è una rivalità, il problema è che probabilmente a Vincenzo non gli sta simpaticissimo e Quintana neanche se ne accorge, questa è la realtà. Ma sì, la verità è che sono i due grandi rivali, i due grandi duellanti, e sarebbe anche una rivalità che ci deve stare nello sport. Ciao Pierlaugusto, ci sentiamo dopo. Ciao per le ultime. Nibali. Forza Nibali, lo urliamo anche insieme a Ciccio Graziani, che non so se segue il giro. Sì, lo seguo, poi tra un po' mi collego che vedo la tappa sull'Etna che deve essere stupenda. Certo Ciccio, tutti noi guardiamo la tappa sull'Etna che deve essere stupenda, gridando forza Vincenzo. Certo, sempre. Io ho annunciato prima le bombe di Graziani. A proposito, abbiamo fatto un po' di fatica negli ultimi tempi a trovarti al telefono, ci mancavi un sacco, posso dirti? Questo mi fa piacere perché ultimamente le convocazioni erano diminuite, allora dico ma si saranno dimenticati. Allora no! Ti ho fatto un po' penare ultimamente. Ci hai fatto un po' penare, Ciccio. Sì, eravamo preoccupati. Sì. Detto, cosa gli abbiamo fatto a Graziani? No, Carlo, nulla, ci mancherebbe, scherzo. Ti vogliamo bene, molto anche bene. No, senti, sì. Ho alcune domande per te. Spalletti, sì. E la passerella a San Siro negata a Totti, da che parte stai? Sto dalla parte dell'allenatore, anche se io l'avrei gestita in maniera diversa la cosa, per un affetto particolare che ho nei confronti di Totti come calciatore, come ragazzo, come uomo, però ho l'impressione che le esigenze di un tecnico non sono mai rivolte al singolo, ma alle esigenze di squadra, ed è per questo che molto probabilmente ha ragione Spalletti. Cuore Toro, nel derby Mihajlovic poteva fare qualcosa di più oltre ad infuriarsi come una bestia beccando due giornate di squalifica che ci stanno ed erano annunciate? No, perché credo che la squadra sia scesa in campo con il suo spirito, no? Lui voleva una gara, un approccio alla gara con carattere, con personalità, e il Toro l'ha fatto, certo al cospetto di una squadra che tecnicamente è nettamente superiore, quindi io penso che Mihajlovic si possa rimproverare solo il fatto che ha avuto una reazione esagerata, perché quando sbaglia l'allenatore a maggior ragione possono sbagliare i calciatori, quindi al Toro si vive così, no? però cuore, effettivamente no, il derby è derby, non c'è niente da fare, noi del Toro l'abbiamo sempre sofferto e per cui lo viviamo sempre con una partecipazione emotiva superiore alla loro, no? Però io credo che Mihajlovic, per come ha messo la squadra in campo con il carattere, con il piglio, con la volontà, lui ha fatto davvero il suo lavoro, poi effettivamente la Juventus è nettamente più forte, ha meritato anche il pari secondo me, nonostante l'episodio, che senza quell'episodio sono convinto che il Toro la può vincere la partita. Io voglio sapere la tua sullo schianto delle milanesi, su come vanno in campo i giocatori dell'Inter, che mi sembra davvero, posso usare la parola vergognoso? Come atteggiamento per un professionista, per un giocatore, per uno anche che si vuole guadagnare la conferma per l'anno prossimo. Discorso che vale anche per il Milan. Milan è parzialmente diversa la storia, una squadra che ha collassato sui propri limiti. Poi anche lì ci sono dubbi su chi rimane, chi va, Montella resta, Montella va via. Poi quando si è chiuso hanno cominciato a perdere. Ma l'atteggiamento dei giocatori dell'Inter io lo trovo inspiegabile. No, è una cosa che è vergognosa. Io dopo la partita persa a Crotone, se fossi stato in Stefano Pioli, da rientrare negli spogliatoi avrei detto: adesso voglio vedervi che vi prendete a schiaffi uno con l'altro perché avete fatto una figura pessima. Noi, io sono convinto che l'Inter vera, fatta di calciatori seri, di uomini seri, 8 contro 11, quasi me la gioco che non la perdo la partita. Non perché sono un presuntuoso e non do i meriti al Crotone, ci mancherebbe, ma perché l'Inter è troppo forte. Ma come si fa? Ma non hanno morale questi calciatori. Le ultime 7 partite hanno fatto 2 punti, ma dovrebbero guardarsi in faccia. Anzi, il capitano di Gaggio dice: si lascia un attimino 5 minuti soli. Ma hanno avuto anche il tempo, hanno fatto il ritiro e poi lavoravano bene in ritiro, poi come dice Mondonico li ha mandati a casa a cambiare la camicia perché stavano lavorando bene. Ma e allora lì non c'è una morale dentro quella squadra lì. Ognuno pensa a se stesso, ognuno va per conto suo, ognuno cura il proprio orticello, tanto se non è qui è da un'altra parte. Io penso che il pensiero di alcuni calciatori dell'Inter sia quello: se non mi vogliono qui, ho un bel contratto, vedo di andare da un'altra parte. Ma non è che si sentono responsabili con loro stessi, con la proprietà, con i tifosi. Ma ragazzi, bisogna salvare la faccia quando si va in campo. Bisogna mettere non il 100%, il 101%, 120, 130. Questi non lo fanno. Possiamo dire che a questi non gliene frega nulla? Io soffro per Stefano, a parte che ce l'ho avuto come calciatore, un ragazzo strepitoso. Sì. Ma io non so quanto potesse fare di più. Può darsi che ci siano anche delle responsabilità sue, perché io arrivo a un certo punto, Stefano dice: signori, sì, però a un certo punto la responsabilità è dell'allenatore, va bene, certo. Però di quelle non ci va in campo, dai, per usare una banalità. Io voglio dare delle responsabilità anche a Stefano, ci mancherebbe, perché poi la gestisce lui. Forse qualche cosa è mancata, perché se la squadra può andare in campo in quella maniera e non reagisce in maniera forte, io avrei reagito in maniera differente, però uno assume delle responsabilità. Io entro negli spogliatoi e dico che correttamente e rispettosamente, ma faccio un casino contro questi ragazzi che metà basta. Ma ci hanno provato, già provato anche Ausilio con gli Strill. La verità è che non gliene frega nulla, Ciccio. Cioè, l'impressione che danno allora, da fuori, che non gliene frega nulla. Dimmela. Carlo, sai cosa faccio? Se non gliene frega nulla e mi accorgo di questo, gli dico che le pensa loro a uno per uno in faccia e poi dico: signore, adesso vado in società, vi ringrazio, vado in società perché io mi dimetto, perché io allenare un branco di persone come voi non mi interessa più, perdo tempo con voi. Sì, allora vado in società e mi dimetto, dico la sola proprietà. Sentite, io ci ho provato in tutte le maniere. Io penso che sia giusto fare questo. Se voi pensate che invece mi date una mano e mi rafforzate questo concetto, allora rimango, altrimenti vi ringrazio dell'affetto, della stima, ma io con questo branco di pecoroni non li alleno più. Senti, io arrivo a un'ultima cosa, che è un'altra squadra che nel cuore ti sta, la Viola, e questo triste epilogo della stagione con Paolo Sosa in uscita, con grandissime contestazioni dei tifosi che non un'era geologica fa, ma un anno e qualche mese fa sognavano lo scudetto dopo un avvio di campionato meraviglioso, i Della Valle che minacciano l'addio dopo appunto le contestazioni dell'ambiente e dopo che comunque avrebbero intenzione pure loro, ovviamente come tutti, di costruire uno stadio, lo stadio tutti o vogliono e nessuno o va, per mille ragioni, soprattutto perché siamo in Italia. Per ora il plastico lo abbiamo visto, è già di per sé una cosa positiva. Ma guarda, io fossi in Andrea Della Valle o di Diego, non mi preoccuperei più di tanto, perché quando le cose purtroppo non vanno bene, quando i programmi non sono in linea poi con quello che succede in campo, ci può stare la contestazione, il malumore, l'insoddisfazione. Sì. Certo, rimprovero a un certo gruppo di tifosi che non si esagera con le offese personali o le famiglie o a quant'altro. La critica ci deve essere, ma l'insoddisfazione ci deve essere, la puoi testimoniare, ma sempre con rispetto. Però io fossi la proprietà, in Diego e in Andrea, mi farei delle riflessioni. Perché alcuni abbonati e sono diversi abbonati non vengono allo stadio? E io è una domanda che me la pongo come società. Certo, forse ho sbagliato qualcosa. Allora cerco di capire il malumore e poi porto avanti comunque i miei progetti. Il problema è che a Firenze Andrea e Diego, Diego meno, ma Andrea deve avere, secondo me, il mio modo di vedere, un dialogo più continuo, un dialogo migliore con la tifoseria, cercare di capire, di comprendere se è possibile. Poi sotto critica ci vanno tutti, se noi pensiamo, guardate la Lazio, ragazzi, fino a poco tempo fa, adesso non so se lo è ancora, ma lo Tito andava sotto, girava sotto scorta. No, certo, girava sotto scorta perché ha rotto con gli ultra quando è arrivato, ha avuto le palle di farlo, io lo rispetto molto per questo. No, anch'io moltissimo, eppure nell'era lo Tito hanno vinto 3 trofei. Guarda che campionati, guarda che stagioni stanno facendo, questa esatto. Compresa, cioè non metterei neanche a confronto le due realtà. Non c'è dubbio, quindi per cui Firenze è ancora un'isola felice, sì, qualche striscione stupido, becero, alla quale non bisogna assolutamente fare grande attenzione. Però io fossi la società, mi pongo il problema del perché chi ha sottoscritto l'abbonamento ad agosto. Sì. E non mi viene allo stadio. Questo per me è una preoccupazione. Sì. Senti, posso farti fare una domanda da Nicola, che è un ascoltatore? Sì, come no. Nicola, certo. Buongiorno, dica a Ciccio Graziani. Signori, buongiorno a voi e a Ciccio Graziani. Niente, volevo cavalca proprio l'onda con questo discorso. E la mia domanda era: che senso ha oggi come oggi cambiare Montella? Sono solo delle voci di Mancini e tutt'altro. Che senso ha cambiare Montella, che ha dato, ha unito il gruppo, ha lanciato i giovani, ha dato un senso di gioco almeno nella prima parte di campionato? Logicamente, dopo avendo la panchina corta con degli infortuni come quelli di Suso, Bonaventura e Romagnoli, e la coperta è corta, e alla fine vengono fuori. È corta da ogni punto di vista, anche tecnico. I valori tecnici, secondo me è inutile cambiare ancora dopo Inzaghi, Brocchi e Seedorf e Mihajlovic ancora un altro allenatore, se no non è la rosa, sono i giocatori, la dirigenza deve essere più chiara, secondo me. Che senso ha? Volevo sentire Ciccio Graziani cosa diceva. No, sono d'accordo. Io tra l'altro ho visto Montella lavorare a Firenze e con il suo staff, a me mi piace tantissimo. Cura le virgole, cura i particolari, è molto pignolo, fa ripetere le esercitazioni più volte se non le fanno bene. Io credo che al di là di qualche responsabilità che ci può essere, io per esempio la gestione di Bacca un po' la contesto a Vincenzo, sarà perché a me Bacca per certi versi mi piace da morire. Sì, però non mi sembra l'attaccante adatto per quel tipo di squadra. Sì, forse non è l'attaccante adatto per quella squadra lì, però ecco, la gestione Bacca sinceramente mi ha lasciato qualche perplessità, però poi per il resto credo che il Milan stia facendo il campionato che gli compete. Adesso sull'onda degli ultimi risultati c'è molta insoddisfazione intorno a questa squadra da parte della tifoseria, però il Milan effettivamente con il potenziale tecnico che ha, la squadra è questa, signori miei, non è che possiamo pretendere che se piantiamo le carote vengono fuori le patate. Qui ci sono 4, 5, 6 giocatori di livello, sì, e poi il resto, il mi resto è complemento. Di dire che, insomma, la maglia del Milan a qualcuno gli rimane un po' pesante. Gli rimane anche un po' larga, gli rimane è un po' larga. Parecchio larga. A certi livelli ci vogliono almeno 4-5 giocatori di spessore perché il Milan possa pensare di guardare al futuro con ottimismo, guardando a dei progetti un po' più importanti che non quello di poter partecipare, con tutto rispetto, all'Europa League. Certo, ma adesso tutto è avvolto nella nebbia milanese, certo. Caro il mio Ciccio Graziani. Ti ringrazio, ci sentiamo presto, Carlo. Rispondi al telefono. Ciccio, non ti voglio bene. Ciao. Non ti dimenticare di me, ciao amico. Ciao. Ciccio Graziani, adesso dalle bombe di Ciccio Graziani passiamo a facciamo un salto lungo, non solo perché cambiamo sport, ma andiamo ad una storia. Abbiamo una musichetta un po' da romanzo, non lo so, magari Roccabella me la trova al volo, una musichetta un po' da romanzo, perché insomma tennis femminile in crisi, non nascono più campionesse, quelle che sono tuttora campionesse sono al tramonto, eccetera eccetera, e ti salta fuori questa storia che richiede la penna di Vincenzo Martucci. Le due meravigliose di una bellezza indescrivibile, Brochard e Sharapova, che si trovano una di fronte all'altra agli internazionali di Madrid. Tutti accorrono ovviamente per ammirare queste due bionde straordinarie. e ti salta fuori una lotta tra tigri feroci, che una partita meravigliosa che dura 3-7, 7-5, 2-6, 6-4 con il sangue agli occhi. Certo, certo, beh sì, sembrava fatto apposta. In genere quando si presentano queste cose poi non vengono mai bene, no? Tutti i grandi match di tutti gli sport, quando hanno una gran, quando si suona tanto la gran cassa, poi non vengono mai bene. Invece questo, forse perché ce lo aspettavamo, di meno, pensavamo che la Sharapova avrebbe vinto facilmente dopo aver esordito così bene la settimana scorsa a Stoccarda, perché pensavamo che la Bouchard, che quest'anno non ne sta azzeccando una, sarebbe stata travolta dalla stessa polemica che aveva scatenato prima della partita, invece è diventato quello che tutti avrebbero voluto sperare in questo tennis femminile sempre più povero, cioè veramente uno scontro ad altissimo livello, tutto di potenza, tutto d'attacco, non tirando mai il freno a mano, perché appena una delle due tirava il freno a mano veniva travolta dall'altra. Molto, sì, molto bello. Molto, molto bello. E pesano le accuse della più giovane canadese rivolte a Maria sull'uso del doping, eccetera, eccetera. Ed è per questo che è venuta fuori questa battaglia feroce, no, Vincenzo? Sì, è venuta fuori questa battaglia feroce per questo motivo, e anche perché prima della partita, come poi ha rivelato la Bouchard, molte molto più paurose della Bouchard, della Wozniacki, che sono ai Bari non dovrebbe essere permesso di giocare. Ecco qua, sì sì, sono andate dalla Bouchard e hanno detto siamo tutte con te, battila quella e lasciamo perdere gli epiteti, eccetera, rivolti alla Sharapova. Questo ha caricato molto la Bouchard e sicuramente ha caricato ancora di più la Sharapova, che non voleva parlare di questa vicenda. Ma soprattutto la cosa più bella di questa storia è che Sharapova era l'idolo della Bouchard, cioè la Bouchard è cresciuta, certo, guardando la Sharapova. Fra l'altro, anche lei è la numero uno dei fotografi, degli sponsor. Mancherebbe altro. Perché è carina, perché è bionda, perché poi rappresenta gli americani, perché il Canada è America, obiettivamente Stati Uniti, no? Quindi c'erano mille motivazioni per accendere questa sfida, e che bello, finalmente abbiamo una partita delle donne, perché diciamolo, da Serena Venus dell'Australian Open non abbiamo visto niente. Bravo Vincenzo. Un'ultima cosa al volo: rimbalza dall'Inghilterra la voce secondo cui Djokovic starebbe pensando ad Agassi come nuovo coach, vero o falso? Spero che non sia vero per lui perché se c'era un giocatore stupido in campo era Agassi. Agassi ha cambiato la propria carriera dal momento in cui è subentrato Brad Gilbert, ma Brad Gilbert è stato quello che per Vilas è stato Tiriac, uno che lo imboccava, perché Agassi di tennis capiva pochissimo. Finché è rimasto con Bollettieri ha perso due finali del Roland Garros, nelle quali non era favorito, era strafavorito, ne ha persa una su Gomez, con Gomez facendolo felice, che io ancora c'ho nella testa. È un giocatore stupido. Poi dopo è diventato Agassi soprattutto per questo famoso libro che non ha scritto lui, non dimentichiamolo, l'ha scritto un premio Pulitzer, e quindi tutti pensano che Agassi chissà chi sia. Io gli auguro, spero che non sia vero, perché farebbe un autogol clamoroso. Non mi perdo una tua sola parola scritta, né di quella degli altri grandi, su Sports Senators. Grazie, sei carinissimo. Stiamo avendo un buon risultato, speriamo che tutto vada avanti bene. Ci mancherebbe non avere un buon risultato, provateci per credere. Ciao ragazzi, ciao Vincenzo. Grazie. Ciao Giorgio De Luca, oggi non c'è Gianmarco Feronato, ma Andrea Roccabella in regia e Edo Vezzari in redazione. Ciao a tutti, sentiamo domani. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!